prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il titolo della nostra rubrica fa evidentemente riferimento alla parabola del buon samaritano, in cui l'espressione prossimo tuo, il tuo prossimo, è centrale. Ed è centrale poi la posizione in cui ciascuno di noi si mette nel rileggere questa parabola sulla propria vita. Chi è il tuo prossimo? A chi ti fai prossimo? Chi si fa più vicino a te, magari per chiedere un aiuto, o a chi tu ti fai più vicino per dare un aiuto, per compiere un'opera di misericordia, quelle che quest'anno giubilare ci sta ricordando, le opere di misericordia corporale e spirituale. In questo senso, allora, è provvidenziale ciò che Papa Francesco ha detto al termine della messa nella domenica della Divina Misericordia, questa domenica appena passata, 3 di aprile, ancora una volta sorprendendoci e indicendo per il 24 di aprile in tutte le chiese cattoliche d'Europa, quindi non è uno sguardo continentale è quello che il Papa chiede alle comunità cattoliche, ma speriamo questo invito possa essere raccolto anche da altri fratelli cristiani, l'invito ad una situazione che all'Europa è vicina e che Europa vorrebbe diventare dal punto di vista amministrativo e politico. Sentiamo a chi si riferisce allora Papa Francesco. Questo giorno, che è come il cuore dell'anno santo della misericordia, il mio pensiero va a tutte le popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di pace. Penso in particolare qui in Europa al dramma di chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina, di quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già varie migliaia di morti e di quanti più di 1 milione sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che perdura. Ad essere coinvolti sono soprattutto anziani e bambini. Oltre ad accompagnarli con il mio costante pensiero e con la mia preghiera, ho sentito di decidere di promuovere un sostegno umanitario in loro favore. A tale scopo avrà luogo una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d'Europa domenica 24 aprile prossimo. Invito i fedeli ad unirsi a questa iniziativa con un generoso contributo. Questo gesto di carità, oltre all'alleviare le sofferenze materiali, vuole esprimere la vicinanza e la solidarietà mia personale e dell'intera Chiesa. Auspico vivamente che esso possa aiutare a promuovere senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto in quella terra tanto provata. E mentre preghiamo per la pace, ricordiamo che ricorre la giornata mondiale contro le mine anti-uomo. Troppe persone continuano ad essere uccise o mutilate da queste terribili armi. E uomini e donne coraggiosi rischiano la vita per bonificare i terreni minati. Rinnoviamo, per favore, l'impegno per un mondo senza mine. Su questo drammatico tema delle mine, tra l'altro, è in diverse sale cinematografiche in questo periodo un film che racconta proprio di questo, di una vicenda post seconda guerra mondiale sulle spiagge della Danimarca. Il film si chiama Land of Mine, cioè Terra delle Mine, o anche, secondo un'altra traduzione su cui si può giocare per l'inglese, Terra mia, mia terra. Appunto, ad alcuni giovani soldati tedeschi viene chiesto di sminare completamente una parte della spiaggia danese che era stata disseminata appunto di mine nella parte precedente terminale del secondo conflitto mondiale. Ancora una volta dunque Papa Francesco ci sorprende e ci invita ad allargare lo sguardo, quindi dell'Ucraina si parla praticamente mai, e il Papa ha ben fatto a rivolgere anche con forza il nostro sguardo, il nostro cuore e anche le nostre tasche verso l'Ucraina. Chiede appunto un impegno generoso, anche perché le azioni di carità di cui parliamo spesso in questo spazio sono certo spirituali, sono certo di sostegno morale, ma devono essere anche alla fine molto concrete e anche tradotte in scelte e in donazione. Allora ben volentieri rilanciamo fin d'ora, lo faremo poi anche nelle prossime settimane, l'appello di Papa Francesco, raccolta fondi a favore dell'Ucraina, che sarà fatta domenica 24 in tutte le chiese cattoliche d'Europa, perché l'Europa sia anche questo, anche solidarietà nei confronti di chi è più vicino o prossimo. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.